La volpe e i tacchini da Favole, dicendo La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Contro i frequenti assalti di una volpe ai tacchini era una pianta fortezza inespugnabile. La perfida sprecava i suoi bei salti, che sempre in sentinella erano le bestie contro le insidie. Ond'ella si rodea, costor dicea si vogliono burlare, ma per gli dèi scommetto che una volta o un'altra saprò ben farla pagare. E mantenne il suo dir. Splendea la luna, lucida a favorir l'accampamento del tacchinesco esercito, e la volpe, maestra in argomento d'assediar città, ricorse al vecchio sacco delle astuzie. Salta di qua, di là, balla sui piedi e fa il morto, fa il risorto con tanta abilità che nessun arlecchin meglio non sa. Spiega la coda a bel lume d'argento ed i tacchini in guardia sulla pianta con 100 lazzi incanta. Ma il tener d'occhio fisso e sempre teso in un oggetto che fa del nemico si confonda la vista entro una nebbia quasi di sonno e tratto dal suo peso qualcuno già casca addormentato e stanco. A lui la volpe il fianco addenta e il porta nella sua dispensa. Poi casca un altro, un terzo e infine l'esercito nell'ugne sue volpine. La paura nel mal è l'occasione che tira qualche volta in perdizione. Fine della favola. La volpe e i tacchini. Questa registrazione è di dominio pubblico.